Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Le 24 ore di stop per il trasporto pubblico locale, un nuovo sciopero, città bloccate per il contratto scaduto da 7 anni. Una protesta inutile e dannosa, dicono le aziende, cittadini ostaggi. Renzi in aula alla Camera in questi minuti, dice l'Europa in difficoltà, Consiglio europeo, governo al lavoro intanto sui tagli di spesa. Il GIP di Messina chiede l'arresto per il deputato del PD Francantonio Genovese, l'inchiesta è sui corsi di formazione, lui annuncia mi sospendo dal gruppo e dal partito. In Crimea continua ad alzarsi la tensione, Kiev denuncia l'assalto russo ad una sua base militare, catturato il comandante della Marina Militare Ucraina. Oggi è la festa del papà, ma non lo è per tutti i padri. Uno su tre tra quelli separati, dice l'associazione dei matrimonialisti, vive in povertà. Sono circa 900.000 persone. Aggressione razzista fuori da una scuola a Casal di Principe, picchiato un ragazzo di colore di 14 anni, mentre in città si ricordano i 20 anni dall'uccisione di Don Peppe Diana. Le accuse della madre di una bimba ai suoi genitori, ossia ai nonni, pedinamenti, telefonate alla pediatra, manomissioni dell'auto, l'accusa, stalking, vogliono educare la nipotina. Una buona giornata da Simone Spezia e benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. Se volete le potete commentare al 349-238-6666, se volete per altri commenti, annotazioni o quel che vi pare, effettogiorno@radio24.it. Parleremo tra un attimo dello sciopero dei mezzi, parleremo anche col presidente dell'associazione che rappresenta le aziende di trasporto pubblico locale, ma prima andiamo alla Camera dei Deputati dove sta parlando in questi minuti Matteo Renzi, comunicazioni in vista del Consiglio europeo, e facciamo il punto con Elisabetta Fiorito. Buongiorno. Sì, buongiorno Simone. Il Premier Matteo Renzi interviene in aula alla Camera in vista del Consiglio europeo di domani. L'Unione europea è in difficoltà, spiega il Presidente del Consiglio, incontrando l'ex Presidente brasiliano Lula, dice Renzi. Mi ha colpito l'affermazione che non aveva mai visto un'Europa così rassegnata, pessimista e stanca. Chi rappresenta un paese dentro il Consiglio europeo deve partire dal fatto che l'Europa vive una fase di difficoltà evidente e che c'è un forte rischio di affermazione dei partiti populisti. Renzi assicura di lottare contro un'Europa espressione di burocrazia e tecnocrazia e riprendere lo sguardo alto sui paesi fondatori. Stiamo costruendo, dice il Premier, un'Europa dove si smistano le persone e le merci, ma si svuotano identità, città e regioni. Il prossimo passaggio elettorale dell'Europa sarà questa volta molto importante e rilevante, dice Renzi. Verrà rinnovato il Parlamento, la Commissione e ci sarà il semestre di presidenza italiano. Subito il primo appuntamento organizzato dall'Italia. Nel nostro paese ci sarà l'appuntamento sull'agenda digitale di tutti e 28 paesi dell'Unione già da ottobre. Renzi dice l'Europa torni a fare l'Europa nel suo ruolo di guida. A te Simone. Grazie alla nostra Elisabetta Fiorito. E in Europa il governo si presenta naturalmente con una serie di riforme, a partire dai tagli di spesa che dovrebbero consentire anche qualche margine di manovra dal lato del bilancio. Ieri è stato presentato sostanzialmente il rapporto Cottarelli, continuano ad emergere dettagli e facciamo un punto con Vincenzo Miglietta. Vincenzo, eccoci. Sì, buongiorno. È un quadro di partenza più chiaro quello sulla spending review dopo il secondo intervento nel giro di pochi giorni in Parlamento del commissario Carlo Cottarelli. Quest'ultimo di fatto ha confermato le linee guida già note del piano di revisione della spesa pubblica. La novità però riguarda l'aggiornamento allora al rialzo dei possibili risparmi per l'anno in corso che dovrebbero permettere di coprire parte degli interventi economici annunciati dal governo. Per il 2014, ha detto Cottarelli, partiamo da 3 miliardi ma si può arrivare a 5, che poi è, Simone, la cifra indicata dal Presidente del Consiglio Matteo Renzi in sede di presentazione dell'intervento sul cuneo fiscale. Nel balletto delle cifre ha fatto capire Cottarelli tutto dipende dalla volontà politica, esempio quello del prelievo una tantum sulle pensioni, si può anche decidere, è stato spiegato, che non si devono toccare. Altro capitolo quello del pubblico impiego, il coinvolgimento di 85.000 statali che sarebbero in esubero da qui al 2016 è una prima stima di massima che va affinata, ha spiegato ancora il commissario alla spending review, che ha messo sotto osservazione infine i costi della politica. Su questi sono possibili risparmi in 3 anni pari a 900 milioni di euro. È tutto, linea allo studio. Grazie al nostro Vincenzo Miglietta. L'azione di governo, dunque, i risparmi, dove trovare i soldi, si sta ragionando, l'ha detto il ministro Madia ieri in un'intervista sull'ipotesi di mettere un limite al cumulo tra reddito da lavoro e reddito da pensione. Su questo stamattina Giovanni Minoli a Mix 24 ha intervistato il ministro del lavoro, Poletti. Sentiamo cosa ha detto. Che i pensionati non possono più lavorare, lei pensa che sia giusto? Io direi di no, io credo che bisogna trovare delle modalità nuove che consentano ad ogni persona di avere una cosa da fare. Io questa la considero il punto di svolta concettuale di questo governo. Quindi devono poter lavorare anche i pensionati? Io lo dico perché il ministro della riforma della riforma deve stare a casa. Il ministro della semplificazione ha detto che non si può essere più cumulo fra chi lavora e la pensione. Ma allora bisogna che ragioniamo su cosa vuol dire cumulo. Bisogna decidere ad esempio qual è la modalità di uscita. Noi possiamo continuare a pensare. Quindi non è d'accordo su questa impostazione? Credo che si debba riflettere insieme. Io non dico sono d'accordo, non abbiamo discusso, quindi ma io in generale continuo a sostenere che ad esempio le modalità di uscita dal lavoro dovremmo immaginarle in modo più graduale e flessibile. Noi anche perché stiamo diventando un paese, il secondo paese più vecchio del mondo, quindi immaginare che pensione e lavoro in qualche forma non possono convivere penso che sia nel tempo molto difficile da sostenere. Sì, ma c'è un dato di tipo sociale. Ogni persona deve sentirsi utile a sé e agli altri. Non possiamo lasciare qualcuno che aspetta la fine, ma che razza di ragionamento è? Senta, noi dobbiamo immaginare che tutti abbiano cose utili da fare. Questo per quanto riguarda il governo e l'azione di governo. In qualche modo a un certo punto probabilmente si dovrà intervenire anche sul tema del trasporto pubblico locale. Trasporto pubblico locale che si ferma oggi per 24 ore naturalmente tra la rabbia dei cittadini e in parte anche quella dei sindacati. Il contratto è scaduto da 7 anni. Le aziende di settore dicono che è una protesta inutile e dannosa e che rende i cittadini ostaggi. Ne parleremo più avanti proprio con un rappresentante delle aziende. Intanto facciamo il punto dal lato della cronaca con Francesco De Remigis. Buongiorno. Buongiorno. Sì, prosegue lo sciopero di 24 ore indetto dalle principali sigle sindacali degli autoferrotranvieri e i disagi in molte città d'Italia. A Milano in particolare restano chiuse le 4 linee della metropolitana almeno fino alle 15 e di nuovo fuori servizio dalle 18 in poi. A Roma la situazione è più controllata, dove la metro A è in funzione ma a singhiozzi, mentre la B rimane ferma. Sono pochi gli autobus in servizio e lo sciopero proseguirà almeno a Roma fino alle 17.30 e poi di nuovo dalle 20. Diciamo, gli orari cambiano da città a città, c'è anche un caso Venezia dove diventa complicato spostarsi ad esempio con i vaporetti, ma molte città stanno tentando di risolvere il problema aprendo per esempio i varchi delle ZTL anche nei centri storici a tutte le vetture. Per quanto riguarda lo sciopero, il governo aveva convocato qualche giorno fa un tavolo con il ministro delle infrastrutture Maurizio Lupi e il ministro del lavoro Poletti, proponendo lo sblocco dei crediti dovuti dalle pubbliche amministrazioni, 1,2 miliardi di crediti che le aziende vandano con la pubblica amministrazione, ma per le associazioni e i sindacati si tratta solo di un atto dovuto, quindi hanno confermato la protesta. Il sindacato non è d'accordo nella proposta di alzare a 40 ore settimanali spalmate sui 12 mesi l'orario di lavoro proposto dalle associazioni. Attualmente si tratta di 39 ore settimanali e il sindacato sostiene che siano in linea con i contratti di altre categorie, quindi hanno confermato la protesta che proseguirà fino a questa sera. Vedremo come evolveranno le cose da questo punto di vista. Vi ripeto, se volete commentare il 349-238-6666. Grazie a Francesco De Remigis. Noi adesso andiamo all'estero e andiamo in Ucraina, dove ci sono nuovi aggiornamenti oggi, una situazione sempre più difficile in Crimea, dove si alza la tensione tra i militari russi e i militari ucraini. Sentiamo. Il governo di Kiev manda il vice premier e il ministro della difesa in Crimea. L'intenzione è quella di prevenire un conflitto militare nell'area. La notizia arriva in una giornata di altissima tensione, iniziata con centinaia di manifestanti filorussi che hanno fatto irruzione nella sede dello Stato Maggiore della Marina Militare Ucraina a Sebastopoli. Dopo una trattativa durata ore, la notizia che il comandante della Marina Militare sarebbe stato portato via dalla sede dello Stato Maggiore di Sebastopoli da agenti dei servizi segreti russi. Sulla linea di confine intanto arrivano oggi oltre 5.000 artiglieri delle truppe aviotrasportate russe che prenderanno parte alle esercitazioni di tiro. Tra le altre aree c'è il poligono vicino a Novorossiysk che confina con la Crimea. Le manovre dureranno da 45 giorni a 2 mesi. Nel batti e ribatti delle agenzie arriva anche una notizia, ma non conosciamo la fonte, secondo la quale domani il segretario generale dell'ONU Ban Ki-moon sarebbe atteso a Mosca, dove potrebbe incontrare Putin. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La cronaca giudiziaria si incrocia con la cronaca politica nel caso del deputato del Partito Democratico Francantonio Genovese. 6 milioni di euro destinati alla formazione professionale in Sicilia, risucchiati invece da società riconducibili all'ex sindaco della città, Francantonio Genovese, attuale deputato PD. Questa è la tesi della Procura di Messina, che stamattina ha presentato alla Camera la richiesta di arresto per Genovese. Secondo l'impianto accusatorio, l'ex sindaco avrebbe gestito un ingegnoso sistema di società intestate a suoi familiari e stretti collaboratori allo scopo di intascare i finanziamenti pubblici. Peculato, truffa, riciclaggio e falso in bilancio, le accuse che gli vengono mosse. Grazie alle pressioni che era capace di esercitare, Genovese sarebbe riuscito a far finanziare decine di corsi gestiti da società a lui riconducibili e poi faceva lievitare i costi incassando rimborsi. Genovese, la politica ce l'ha nel sangue, è figlio del senatore Luigi Genovese e nipote del più volte ministro Nino Gullotti, entrambi esponenti della vecchia Democrazia Cristiana. È stato assessore provinciale e sindaco a Messina, deputato regionale in Sicilia e dal 2008 membro della Camera dei Deputati, la cui commissione adesso dovrà decidere sull'autorizzazione all'arresto. Intanto Genovese ha appena annunciato l'intenzione di autosospendersi dal partito e dal gruppo parlamentare del PD alla Camera. Monica Ceravolo, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E questo è il quadro per la vicenda appunto di Francantonio Genovese. Nel frattempo arrivano delle maggiori dettagli dell'intervento del Presidente del Consiglio Matteo Renzi alla Camera. Abbiamo parlato poco fa di Ucraina. Dice Renzi: bisogna tenere aperto un dialogo proprio mentre giudichiamo illegittimo il referendum. Il riferimento naturalmente è al dialogo aperto con Mosca. Vedremo anche da questo lato come andranno le cose. Noi restiamo sulla cronaca. Due minorenni sono stati denunciati dalla polizia nel Casertano, a Casal di Principe. Sono stati denunciati dopo aver aggredito con casco e una pinza, per motivi razziali, un coetaneo originario della Nigeria all'esterno di un istituto tecnico del paese. La vittima è un 14enne appunto in ospedale, dove i medici hanno diagnosticato ferite alla fronte e ad una palpebra e un trauma cranico. I due aggressori, che frequentano la prima classe dell'istituto superiore, oltre a colpire più volte la vittima con il casco, hanno usato appunto anche una pinza giratubi. Già in passato, da quel che è emerso, i due ragazzi hanno più volte offeso la vittima per motivi di carattere razziale, sottoponendola ad angherie frequenti. Tutto questo avviene a Casal di Principe, dove oggi in realtà è teatro di un'imponente manifestazione in ricordo di Don Peppe Diana, a 20 anni dalla morte, dall'uccisione. Ci colleghiamo con Laura Vigiano, che ci racconta come stanno andando le cose. Buongiorno Laura. Sì, buongiorno. Infatti dopo 20 anni il silenzio delle terre dei casalesi è stato rotto dalla musica e dalle grida gioiose di circa 20.000 ragazzi che ricordano il prete che per amore del suo popolo non ha taciuto e ha pagato con la vita. Dal palco realizzato davanti al cimitero di Casal di Principe si è sentita forte la frase «La Camorra non vale niente». Venti di cambiamento, venti di speranza è lo slogan dello striscione che ha aperto il corteo, al quale hanno partecipato anche parlamentari e magistrati. Don Ciotti fa notare che da un seme sono nati i frutti. Il grido convinto degli studenti, Don Peppe Diana, le tue idee sono le nostre, pesa e si nota sui volti dei familiari di un boss dei casalesi che qualcuno ha riconosciuto per la gente. Anche oggi, poco lontano da qui, nei campi è facile vedere i caporali e i lavoratori sfruttati, chi chiude le finestre e gira la faccia, ma una volta tanto si percepisce anche la voglia e la speranza di cambiare, a cui, dice Franco Roberti, capo della procura antimafia, lo Stato deve dare risposta. Da Casal di Cucchi è tutto. E grazie a Laura Viggiano per questi aggiornamenti, ma oggi si ricorda anche un altro anniversario, quella dell'uccisione del giuslavorista Marco Biagi ad opera delle nuove Brigate Rosse. Mario Mattei, buongiorno. Buongiorno a lei e grazie della vostra ospitalità. È un promotore di una staffetta in bicicletta che si svolgerà questa sera. Di cosa si tratta? La ringrazio. Brevemente, noi dal 2003, in occasione dell'anniversario, e quest'anno ricorre il 12° anniversario, facciamo una staffetta simbolica in bicicletta che ripercorre lo stesso tragitto che il professor Biagi compiva tutte le sere dal rientro dall'Università di Modena a casa sua. La manifestazione ovviamente è aperta a tutti i cittadini e persone di buone volontà che vogliono con noi condividere questo momento. La cerimonia è molto semplice, molto sobria e si manifesta con la staffetta appunto in bicicletta fin sotto casa via Valdonica, un piccolo momento musicale dell'avvocato Traversa, qualche poesia in tema per concludere tutto alle ore 20:30 alla presenza, diciamo, di autorità, di cittadini. Ci dia l'appuntamento, che se c'è guardi, qualcuno che vuol venire. Guardi, è un vero piacere. Alle 19:30 ci troviamo in piazza Medaglie d'Oro, stazione di Bologna, e partiamo alle ore 20:05 per essere alle 20:07 in piazzetta Biagi, il momento in cui fu ucciso. Buona giornata e buona pedalata, Mattei. Grazie a voi. Traffico. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Parla Renzi alla Camera, l'Europa non ci fa le pulci, siamo sulla stessa barca e siamo pronti a fare la nostra parte. La nostra disoccupazione giovanile grida vendetta, dice il Premier. 24 ore di stop per il trasporto pubblico locale, un nuovo sciopero, città bloccate per il contratto scaduto da 7 anni, lo avete appena sentiti, gli aggiornamenti in strada in diretta. Il GIP di Messina chiede l'arresto per il deputato del PD Francantonio Genovese, lui annuncia: mi sospendo dal gruppo e dal partito. In Crimea continua ad alzarsi la tensione, Kiev denuncia l'assalto russo ad una sua base militare, catturato il comandante della Marina Militare Ucraina. Ed è il momento del nostro viaggio, il viaggio che stiamo dedicando al sud, consci del fatto, insomma, che per ripartire del mezzogiorno c'è bisogno, e anzi senza il mezzogiorno non si riparte. Questa settimana siamo in Puglia. È in una stanza piena di luce e di giovani che passano tutti gli esami d'Italia per la diagnosi precoce dell'Alzheimer, qui al piano terra del Dipartimento di Farmacologia di Bari, dove la ricerca si è fatta impresa e l'invenzione di un kit è diventata un brevetto, quindi un'azienda, Bio4Drug, spin-off dell'Ateneo, che dà lavoro ad ex ricercatori in un circuito internazionale. Eravamo partiti che riuscivamo a fare 12 campioni al giorno, adesso in collaborazione con il CNR di Lecce riusciamo a processare fino a 25 campioni al minuto. Nicola Colabufo, il professore universitario che guida la squadra, mostra con orgoglio i premi ricevuti, come quello della Regina d'Inghilterra, per un progetto in cui, racconta, all'inizio hanno creduto più all'estero. Ma la nota di rammarico è sostituita ben presto dall'analisi scientifica della situazione elaborata dopo aver visitato centri d'eccellenza in giro per il mondo. Lì c'è una struttura che va dai piccoli incubatori alle aziende. Questo è sicuramente un qualcosa che noi qui a Bari non abbiamo. L'Università di Bari non ha ancora la mentalità manageriale della ricerca che si fa innovazione, che si fa prodotto, e fino a che non si avrà la consapevolezza che la ricerca ha anche un valore, quindi spendibile dal punto di vista dell'innovazione, anche per creare posti di lavoro, forse rimarremo un po' il sud di cui qualche volta si parla. Eppure in queste stanze si sfidano la recessione e i trend negativi, qui dove i talenti tornano, non scappano, in controtendenza con tutto il sud e con gran parte dell'Italia. Ma in questi corridoi dove si respira alcol e ricerca, tutti sanno di essere eccezioni speciali come le pozioni del loro laboratorio. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bari. 19 marzo, lo sapete tutti, è la festa del papà, ma c'è chi non se la gode. Gianetto Regassani, presidente dei matrimonialisti italiani, buongiorno. Buongiorno a voi. Chi è che non se la gode questa festa del papà? Beh, una grossa fetta di popolazione di padri. Un terzo dei padri separati vive in condizioni di assoluta indigenza, tanto è vero che la Caritas e la comunità di Sant'Egidio offrono loro dei pasti caldi tutti i giorni. Si parla di funzionari, impiegati insospettabili che la mattina limano il cartellino e che invece poi la sera vanno appunto a fare la fila per un piatto di pasta o dormono dai genitori o addirittura nell'autovettura. Un terzo dei padri separati italiani, 900.000 persone. E che cosa si può fare secondo lei, Gassani? Che cosa manca? Ma manca, a mio parere, manca una presa di coscienza di un problema sociale, perché in alcune città ci si è resi conto che l'unica cosa da fare era fare gli alloggi, dare dei sostegni economici e psicologici, ma è un problema che riguarda la sensibilità di questo sindaco, di quel governatore. Abbiamo bisogno di una legge nazionale, perché 800.000 padri, anzi 900.000, vivono in condizioni disperate e questa situazione va a incidere anche nei rapporti con i figli. I padri non vogliono farsi vedere in ginocchio dai figli, si vergognano giustamente, e quindi l'affidamento condiviso viene meno quando c'è la miseria, quando c'è il tracollo della dignità di una persona. Noi non dobbiamo mai evitare che le persone possano avere una via d'uscita. Se non hai via d'uscita diventi molto pericoloso, e per cui anche molte situazioni drammatiche, leggiamo sui giornali, e soprattutto molti suicidi dipendono da questa mancanza di nuove opportunità. Grazie a Giannettore Gassani, presidente dei Matrimonialisti Italiani, per essere stato con noi e per aver esposto a tutti questa realtà. Noi continuiamo a parlare di famiglia, ma per una vicenda di cronaca, dobbiamo dire la verità, molto, molto particolare, che in realtà nella fattispecie riguarda una madre e i suoi genitori e il rapporto con la nipotina. Sentiamo. Che bella questa immagine dei nonni sorridenti, fili bianchi fra i capelli, che giocano a nascondino e vogliono tanto bene ai nipotini. A volte troppo bene. Notizia oggi sui giornali: una donna di Modena trascina in tribunale i propri genitori perché troppo invadenti nell'educazione della nipotina. Si parla di pedinamenti, appostamenti fuori dalla scuola, telefonate alla pediatra per convincerla che quella mamma non è degna di essere tale. Addirittura tentativi di allattamento da parte della nonna quando la bimba è neonata, tanto che coppia e bambina decidono di cambiare città. Insomma, dopo quello di ex mariti e fidanzati respinti, a fare stalking ci si mettono pure i nonni, i quali ad onor del vero respingono ogni accusa e dicono di voler solo vedere la loro amata nipotina. Il 14 luglio è attesa la sentenza e staremo a vedere cosa decideranno i giudici. Intanto un consiglio a tutti i genitori: evitare che i nonni si impiccino è impossibile. Avremo sempre sicuramente vestito troppo leggeri o troppo pesanti i nostri figli, saremo sempre troppo permissivi o troppo severi con i nostri piccoli mostri. Inutile provare ad arginare il mare. Certo che andare ad abitare attaccati ai nonni e mollare loro la piccola nei primi anni di vita perché ci è comodo non aiuta. Rispettate sempre le distanze di sicurezza, cena sempre a casa propria e magari con il sugo fatto da noi, e al mattino, se possibile, i piccoli vadano al nido. Solo a quel punto possiamo pretendere la privacy che meritiamo. Maria Piera Ceci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E passiamo dal parlare di famiglia al parlare di conti in famiglia, anche se vogliamo. Parliamo di Equitalia. Gianni Trovati, ciao, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Del Sole 24 Ore, naturalmente, ma lo conoscete tutti e lo sapete tutti. Perché ti abbiamo voluto in diretta oggi? Perché succede che a Milano, ma probabilmente non solo a Milano, non stanno più notificando le cartelle di Equitalia a casa, ma in comune, intasando di fatto gli uffici comunali. La cosa che personalmente trovo affascinante, ma sicuramente c'è una ragione, è che ti avvisano con una lettera che ti arriva a casa che hai la cartella esattoriale da ritirare in comune. Che cosa succede e perché? Sì, è un piccolo mistero, è un piccolo grande mistero che sta, come dire, tormentando le mattinate di migliaia di milanesi che devono recarsi al comune o alle cosiddette case comunali, che sono un po' di posti dislocati in varie zone della città, per ritirare cartelle di Equitalia. Tutto questo fa parte, verosimilmente, anche se una spiegazione normativa non esiste, diciamo così, fa parte dei rapporti sempre più complicati, articolati e complessi che ci sono tra l'agente della riscossione in città come Milano Milano e il Comune di Milano, perché per esempio anche l'anno scorso è successa una cosa diciamo simile o comunque strana, perché il Comune sta abbandonando via via Equitalia, la riforma della riscossione è in ballo da circa 5 anni, non solo a Milano, in tutta Italia, senza esito, e quindi si è ripreso in carico, diciamo così, alcune voci come la tassa rifiuti, con il risultato che ad alcuni sono le residenti a Milano da anni, decenni, sono arrivate le cartelle della tassa rifiuti nei comuni di nascita, di origine, c'è chi l'ha ricevuta in Sardegna, chi l'ha ricevuta in Veneto, chi non l'ha ricevuta proprio e così via. Tutto questo fa parte di un tema, diciamo, complessivo, che è questa riforma della riscossione, che vive in proroga dal 2011, dal luglio del 2011, sta complicando enormemente le procedure, perché se tu naturalmente in un sistema complicato e delicato come il fisco non chiarisci subito il quadro, succede di tutto. Lo sa per esempio chi ha ricevuto in questi mesi una multa dal Comune di Milano, in molte zone non ti fanno più la multa con il verbalino sul tergicristallo, ma ti segnano con una sorta di pistola laser e poi ti arriva a casa. Se tu non sei a casa in quel giorno lì, in quell'ora lì, in quel minuto lì, quando arriva il messo a notificarti la multa, parte una curiosa trafila per cui vai sempre alla casa comunale, allora ti arriva una notifica, dice alla casa comunale c'è una multa, vai alla casa comunale, ritiri la multa, torni a casa, il giorno dopo ti arriva una seconda notifica che ti chiede di andare a ritirare alla casa comunale, diciamo, l'avviso che tu hai ritirato il giorno prima la multa. Lo so che è incomprensibile, ma succede così. Risultato finale, per tornare sul concreto, le spese di notifica della multa sono 11 euro. Quindi una multa per divieto di sosta di 35-40 euro è caricata di una spesa di notifica di 11 euro, che è tantissimo, immagino. Di altri 11 euro. Secondo te, tu che conosci queste cose, il rischio di estensione del fenomeno che i milanesi, al quale i milanesi stanno assistendo in queste ore, posto che non ne conosciamo esattamente l'origine. No, non dovrebbe esserci, perché appunto, essendo capitato peraltro in una città grande come Milano, essendo, diciamo così, alla base di una polemica, probabilmente rimedieranno, perché è veramente incomprensibile. È una procedura quella che di solito riguarda gli irreperibili, sì, cioè gente che non solamente ha più. Che se ti mandano la lettera a casa dicendoti guarda, c'è una cartella da e per di più tu ti presenti, vuol dire che tanto irreperibile non sei, ma chiaramente la burocrazia, quando entra in questi cortocircuiti, diciamo, diventa più che kafkiana, perché sì, l'avviso, certo, la notifica che ti hanno, la notifica che ti notifica, il fatto che tu hai effettivamente ritirato già una multa, dice grazie di avermelo notificato, lo sapevo, sono andato io. Grazie a Gianni Trovati al Sole 24 Ore. Una pausa, ci ritroviamo per le borse. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. E torniamo allo sciopero dei mezzi che sta interessando tutte le città in queste ore, lo sciopero del trasporto pubblico locale. Saluto Marcello Panettoni, presidente di ASTRA, scritto con due S, che è l'associazione datoriale nazionale delle aziende di trasporto pubblico locale in Italia, quelle sia degli enti locali che private. Buongiorno Panettoni, benvenuto. Buongiorno a lei. Buongiorno. Allora, dato che abbiamo un rappresentante della parte datoriale, provo ad evitare di mettermi nei panni dell'utente medio e provo a mettermi nei panni del lavoratore. Contratto scaduto da 7 anni comunque. Sì, questo è un dato della realtà. Dopodiché occorre però fare alcune precisazioni. Intanto in questo lungo periodo ci sono stati 2 accordi parziali. Con il primo, i lavoratori nel maggio del 2008 hanno avuto un acconto di 60 euro che è entrato in busta paga, con un recente accordo dell'anno scorso ne hanno avuto altri 700 come acconto parziale su quanto avrebbero teoricamente maturato, quindi non sono rimasti fermi. Ma la cosa più preoccupante, di fronte a un disagio che ha investito le città italiane e i cittadini del nostro paese, a me sembra che sia importante tornare ai fondamentali, perché altrimenti non si capisce. E cioè a dire, noi abbiamo da 2 anni una costante crescita di domanda del trasporto pubblico, per cui non è possibile comprimere i servizi. Sì. si può cercare di ottimizzare dove c'è poca domanda e mettere qualche pullman in più dove ce n'è tanta, però sostanzialmente non è comprimibile. Sì. Di fronte a questo dato c'è una quantità di chilometri di servizio percorso inevitabilmente da parte dei mezzi pubblici. Noi abbiamo da parte delle regioni una contrazione di risorse che è di circa 800 milioni all'anno. Okay. Nell'11 c'erano il 12% delle aziende in disavanzo, sì. Nel 12 siamo saliti al 43%, sì. Nel 13 saremo al 55% circa. In questo quadro, che è una situazione eccezionale per il settore oltre che per il Paese, è evidente che noi dobbiamo pensare a una trattativa che cerchi di farsi carico di questo stato di cose, altrimenti non è pensabile. Cioè, che lei dice Panettoni, in sostanza non è questo il modo, cioè non è lo sciopero in questa condizione, no. Con il 55% con il 55% delle aziende in rosso nell'anno appena trascorso, non è ipotizzabile pensare di trattare su queste basi, sulla base del rinnovo contrattuale e di aumento di costo significativo carico delle aziende. Noi abbiamo proposto ai lavoratori una piattaforma sulla quale credo che ragionevolmente ci si possa incontrare e continueremo a trattare naturalmente, cioè a dire: dateci produttività, dateci flessibilità, in cambio di questo la stimeremo e la convertiremo in salario, in aumento salariale. Dopo si tratterà di vedere se mancano 10 milioni alla fine del confronto o ne mancano 20 e se questi devono essere comunque reperiti dalle aziende, ma il nodo di fondo è che in questa situazione non se ne esce vivi, non c'è possibilità di avere un servizio che abbia delle prospettive. Ecco perché contemporaneamente noi diciamo anche al governo, nel mentre ci dite da un lato che questo è un servizio inefficiente e noi cerchiamo di tutto per cercare di portarci efficienza e economicità di gestione, siamo disponibili a ragionare sulla struttura delle aziende, a favorire i processi di aggregazione, anzi li chiediamo noi, chiediamo incentivi fiscali. Volete incentivi fiscali anche per queste cose, anche per eventualmente aggregazioni, dice lei? Ma dico perché incentivi fiscali o di natura contributiva che favoriscano un progetto industriale di ammodernamento del settore. Le aziende sono pronte, spero che lo siano anche gli azionisti, ma soprattutto ci vuole una capacità di organizzare il nostro futuro nel rapporto con il mondo del lavoro e nel rapporto con il potere politico nazionale e locale che ci deve guidare in questo processo di trasformazione e industrializzazione, tale che consenta al settore di continuare a rendere un servizio efficiente a 15 milioni di persone al giorno. In 30 secondi, un suo giudizio secco sullo sciopero di oggi. Guardi, io ho detto prima che era inutile e dannoso. Dannoso per i cittadini, inutile perché se è uno strumento di pressione nei confronti delle aziende, noi non abbiamo bisogno di essere avvertiti da uno sciopero. Se è uno strumento di pressione nei confronti del governo perché intervenga, io mi auguro che il governo intervenga secondo le indicazioni che noi abbiamo fornito per dare a questo settore una prospettiva, efficienza, dinamicità e soprattutto risparmi di gestione. Grazie a Marcello Panettoni, presidente di Astra, l'associazione datoriale delle aziende del trasporto pubblico locale. Marco Maccaroni, che è capitano di fregata e capo ufficio stampa della Marina Militare, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a lei. È stata una nottata pesante, faticosa di sbarchi, 13 imbarcazioni di immigrati salvate al largo delle coste siciliane, 1500 persone tratte in salvo sostanzialmente, sono più o meno questi i numeri, no? Sì, sono oltre 1500 i migranti soccorsi nella notte, dagli interventi della fregata Euro, della nave anfibia San Marco e del pattugliatore Cicala Fulgosi. Sono intervenute in concorso anche delle unità mercantili dirottate dal comando della Capitaneria di Porto e anche delle motovedette della Capitaneria di Porto. L'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni parla di cifre di queste ultime ore che si aggirano intorno alle 4.000 persone arrivate sulle nostre coste. Siamo più o meno su questi numeri, al di là insomma, dei numeri che ci ha appena dato, che riguardano solamente la notte appena trascorsa? Guardi, nelle ultime 48 ore sono oltre 2000 e tuttora sono in corso delle operazioni su dei contatti o dei natanti che sono stati avvistati. Purtroppo le condizioni meteorologiche favorevoli permettono l'arrivo senza sosta dei migranti. Tra i 400 di questa notte poi c'è da aggiungere notizia di poco fa che il nave San Giusto ha dovuto evacuare un malato grave e anche un cadavere purtroppo, che sono stati causati dall'inalazione di vapori e idrocarburi del barcone dove viaggiavano. Quindi una persona che è grave, che era già malata prima o in seguito all'inalazione, una persona che è rimasta vittima di tutto questo? Sì, il decesso diciamo è da attribuire all'intossicazione delle esalazioni durante, è stato già recuperato senza vita purtroppo. Le voglio fare un'ultima domanda: che cosa vi attendete per le prossime ore? Perché se il meteo continua ad essere questo, credo che gli sbarchi continueranno. Guarda, il dispositivo Mare Nostrum è in atto dal 18 ottobre del 2013 e continua ad operare dando il massimo delle proprie possibilità. Le condizioni meteo marine sono quelle che sono e sicuramente fino a domenica ci aspettiamo delle buone condizioni meteo marine. Siamo lì e cercheremo di portare soccorso a tutti quelli che arriveranno. Grazie a Marco Maccaroni, al capitano di fregata Marco Maccaroni, capo ufficio stampa della Marina Militare. Buona giornata. Grazie a lei, buongiorno. Traffico. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. È il momento di Mario Platero e di America 24. Meglio una banca o meglio un promotore? Meglio Fideuram. Vi presenta... America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Più tardi questa sera ora italiana la Fed deciderà se tagliare di altri 10 miliardi di dollari gli acquisti di titoli di Stato immobiliari sul mercato, il famoso QE3. Devo dire, l'economia va abbastanza bene, la disoccupazione in febbraio è migliorata, dunque il pronostico è per una progressiva riduzione di questi acquisti. Un rischio ovviamente potrebbe venire dai mercati se le tensioni per la Crimea e l'Ucraina dovessero aumentare invece che diminuire. Insomma, qualche problemino potrebbe esserci. In effetti abbiamo avuto il primo morto ieri, è stato convocato un G7, ma il problema credo si porrà più avanti, visto che per ora la speranza resta quella di una soluzione diplomatica. Vedremo quali saranno gli sviluppi. Intanto oggi voglio parlarvi di un settore, un settore un po' particolare dell'economia, che ha fatto discutere molto in America in questi giorni: il settore della pornografia, che vale ben 13 miliardi di dollari. C'è l'impression di far semblant. Far semblant tout. Moi, il manca un truc qui. Avrete riconosciuto uno spezzone di La vita di Adele di Abdelatif Kechiche, che ha vinto l'ultimo festival di Cannes. È la storia di due ragazzine adolescenti che scoprono e vivono la loro omosessualità. Il film ha generato molto dibattito allora per delle scene di sesso completamente esplicite, e si disse appunto allora, ma che differenza c'è tra un film che vince a Cannes e alcuni filmini pornografici che spesso hanno pretese artistiche ma che si portano dietro questa matrice porno? Una risposta è venuta appunto giorni fa da un editoriale, un opinion piece sull'autorevolissimo, prestigiosissimo New York Times, firmato dalla pornostar Stoya. Stoya è undicesima nella classifica delle più amate pornostar in America, ha 150.000 follower su Twitter e devo dire un articolo molto ben scritto. E Stoya dice che vuole rispetto per il suo lavoro artistico e per se stessa, soprattutto vuole la tutela della privacy, della sua privacy e di quella delle sue colleghe. E scrive proprio per difendere una collega, Bell Knox, studentessa al primo anno della Duke University, che per pagarsi le rette scolastiche ha girato con un certo successo dei film porno. Poi è stata scoperta in classe, messa alla berlina fra i compagni, anche con delle minacce, beh, insomma, molto aggressive. Basta con le ipocrisie, dice Stoia. Se lei stessa o Bell esistono è perché ci sono consumatori che spendono 13 miliardi di dollari l'anno per la pornografia. Insomma, una rivendicazione di dignità. Quindi torniamo alla domanda iniziale. C'è differenza fra la vita di Adele, che ha vinto all'ultimo Festival di Cannes, e i filmini pornografici relegati ai Festival di Las Vegas? Beh, ne ho parlato ai microfoni America 24 con Vittorio Zucconi, corrispondente di Repubblica degli Stati Uniti e mio caro amico. America 24. Buongiorno Vittorio. Buongiorno a voi tutti. Ecco Vittorio, che riflessione fai su questa tematica così bollente? La prima cosa è scoprire che tu, come del resto anch'io, riveli la tua età quando parli di filmini pornografici. È un pezzo che non sono più filmini pornografici. Questa è una colossale industria che infatti si fa chiamare l'industria dell'intrattenimento per adulti e che sta semplicemente emergendo e chiedendo di essere trattata come qualsiasi altra industria dell'intrattenimento. La stessa Stoia, che è di origine serba, quindi il suo nome ha origine, mi pare, dalla nonna, è un'abbreviazione del nome della nonna, e dice: adesso mio padre non riesce più a guardare i film pornografici perché sa che potrei esserci anche io, quindi ha detto che il padre guarda la pornografia. Quindi è semplicemente che questo confine del quale parlavi tu si sta assottigliando sempre di più, e queste donne, per ora soprattutto donne, anche se ci sono degli uomini che ogni tanto emergono, vogliono essere trattate per quello che pensano di essere, cioè per degli interpreti, delle attrici che recitano un tipo di film, non di filmino, Mario, molto particolare. Ecco, infatti è proprio quello il punto, Vittorio, perché è poi dall'America che giungono delle sfide su nuove frontiere della moralità, su nuove frontiere sociali, su cambiamenti sociologici, che poi in un modo o nell'altro, come dire, si affermano, spesso si sono affermati. È possibile che questo anche diventi normalità, cioè che quel confine tra Cannes e Las Vegas vada ad annullarsi? È un confine che per esempio ha varcato qualche mese fa un'altra famosa stella dell'industria, chiamiamolo pure dell'intrattenimento adulto, che si chiama Aurora Snow, anche quello il nome d'arte, la quale, scoprendosi incinta, aspetta un figlio, ha scritto una lettera pubblica uscita sui giornali, diffusa in rete, per dire al futuro figlio: sì, tua madre ha fatto questo lavoro, cominciato come tante del resto facendo la modella, posando nuda, poi via via per bisogno di soldi e poi perché ho scoperto che era un'attività che tutto sommato mi rendeva. Non voglio che tu ti vergogni di me, non voglio che tu faccia la stessa cosa che ho fatto io, ma non voglio che tu lo apprenda da qualche amico, magari in un gabinetto della scuola media o del liceo. E questa è la testimonianza di come sta cambiando l'atteggiamento di fronte a questi film, a questo tipo di produzione, quando non coinvolge naturalmente schiavitù sessuali, tratta di ragazzine, ricatti, violenza, quello è tutto un altro aspetto. Qui parliamo, diciamo, della pornografia platinata, e queste persone che ne fanno parte dicono semplicemente: sì, magari non è giusto farlo, sarebbe meglio fare l'interprete di Blue Jasmine piuttosto che di un film o della Grande Bellezza, però io questo faccio e non ho ragione di vergognarmi. E c'è un'accettazione crescente. Ecco, voglio chiudere, Vittorio, su Bell Knox, cioè su questa ragazza della Duke University, la quale ha avuto il suo nome d'arte tradito da un compagno che l'ha riconosciuta, le aveva promesso che non l'avrebbe rivelato e poi invece l'ha tradita. E la signorina Bell Knox dice: beh, io l'ho fatto intanto perché mi piace, perché è una cosa che mi diverte, che mi interessa e io mi trovo realizzata in quello che faccio, ma anche per pagarmi le rette universitarie. Tu che cosa ne deduci? Beh, che innanzitutto c'è una colossale oscenità che un'università costi 60.000 dollari all'anno tra rette e alloggio, come oramai costano le 150-200 università top americane. È un'oscenità che risponde a un'oscenità. L'altra cosa è come si sentiranno queste stelle più o meno volontarie, più o meno dilettanti, ma pagate in questo caso della pornografia, come si sentiranno a 45, a 50, a 60 anni, quando si volteranno indietro e magari rivedranno le cose che facevano quando ne avevano 20. Può darsi che non siano così serene e sicure di sé come oggi dicono di essere. sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Seguiteci su america24.com, su Twitter, @MarioPlatero, ed eccoci alla canzone del giorno. Il 1 agosto uscirà un nuovo film sulla vita del grande cantante americano James Brown, diretto da Tate Taylor, The Help, nel cast tra gli altri Dan Aykroyd, Octavia Spencer e Craig Robinson. Di James Brown, I Feel Good. Wow, I feel good. I knew that I wouldn't. I feel good. I knew that I wouldn't. So good, so good. I got a year. Wow, I feel nice. The sugar runs by. A sugar and spice. So nice, so nice, I got you. Per ora è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. Meglio una banca o meglio un promotore? Meglio Fideuram. Vi ha presentato America 24. Ed è tutto per Effetto Giorno, ringraziamento a Carmelo Lauricella in regia, Laura Fagini in assistenza in redazione, come sempre tutta la redazione di Radio 24, Effetto Giorno @radio24.it per scriverci. Una buona giornata da Simone Spezia, ci risentiamo domani alle 13 con la trasmissione, tra un attimo col giornale radio.